Se a me me tocca e sei duro. Mannaggia il presente e pensa solo al futuro. Alla mattina quando mi sveglia a me me tocca. Radio Onda Rossa, ore 11:30. E dunque la notizia è già andata in onda ieri sera nel corso del GR, ma la sua gravità ci induce comunque a riparlarne in maniera magari un po' più approfondita anche questa mattina, perché la situazione riguardo le biblioteche comunali, un servizio assolutamente essenziale e peraltro mi verrebbe da dire indispensabile per la nostra città, anche perché insomma costituito in modo da arrivare anche laddove generalmente molti servizi non arrivano, ad esempio nei territori della periferia urbana. Ebbene, questo servizio veramente sta per essere drasticamente rimaneggiato, sottoposto a dei tagli. La situazione del comune di Roma per questa giunta è tale, la posizione debitoria, che deve saltare qualcosa, e questo qualcosa che deve saltare tra l'altro è appunto il servizio delle biblioteche comunali. Ne riparliamo con il nostro redattore che è al telefono, anche perché insomma la situazione davvero si sta come dire avvelenando, perché la possibilità che le biblioteche inizino ad osservare comunque un orario fortemente ridotto è proprio concreta e palpabile. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sì, ve ne parlo in quanto lavoratore delle biblioteche di Roma. Certo. Da molti anni e siamo all'inizio di un collasso annunciato, e la situazione è veramente drammatica e anche abbastanza complicata. Io proverò a sintetizzare, a rifare la storia recente di quello che sta succedendo, di quello che è successo e sta succedendo alle biblioteche, per correttezza, insomma, completezza dell'informazione. Allora, da gennaio 2013 la Giunta Alemanno decide di tagliare il bilancio alle biblioteche di Roma. Le biblioteche di Roma hanno la forma di istituzione, che è una delle due istituzioni che ha Roma Capitale, l'altra è quella, l'Agenzia delle Tossicodipendenze, che in pratica cosa significa? Non entriamo nei particolari, sarebbe troppo lungo. Una sorta di autonomia gestionale per offrire un servizio migliore ai cittadini e alle cittadine. Questa forma è stata voluta dagli stessi lavoratori e lavoratrici che hanno fecero un progetto diversi anni fa e ottennero dal Consiglio Comunale nel 1996 l'istituzione delle biblioteche di Roma. In pratica quello che prima era decentrato da un punto di vista anche decisionale e anche finanziario nelle varie vecchie circoscrizioni venne tutto centralizzato in un unico organismo che si doveva occupare appunto solo delle biblioteche, centri culturali di tutta la città. Ovviamente, intendiamoci, la centralizzazione operativa dal punto di vista della diffusione sul territorio invece viene in questo modo incentivata l'apertura di nuove biblioteche e la ristrutturazione di quelle esistenti. In effetti nel corso di ormai 17 anni le nuove biblioteche aperte sono state una quindicina e quelle ristrutturate altrettanto. Quindi da questo punto di vista, dal punto di vista dell'ampliamento degli orari al pubblico, considerate che mediamente le biblioteche di Roma sono aperte 50 ore settimanali. Credo che nessun servizio di Roma Capitale arrivi a tanto, se si fa eccezione della polizia locale, che ovviamente deve essere in funzione 24 ore su 24, ma ecco, parlando di un servizio ai cittadini, un servizio tradizionalmente inteso, nulla può stare a paragone di quello che offrono le biblioteche di Roma. Per non parlare della gratuità ed anche della qualità di questo servizio, che è universalmente apprezzato dalla popolazione e dalla quantità enorme di attività culturali che vengono prodotte, dalla possibilità non solo di prendere in prestito diciamo i documenti librari o audiovisivi, considerate che l'anno scorso siamo arrivati a sfiorare i 2 milioni di prestiti nella città e con iscritti ne abbiamo se adesso non ho i dati aggiornati, ma siamo nell'ordine di oltre 300.000 persone. e quindi una realtà grossa, consolidata, apprezzata, in espansione dal punto di vista della quantità e della qualità dei servizi offerti, anche all'avanguardia, perché ormai ci sono le applicazioni pure su smartphone, sui tablet, è possibile consultare a casa i nostri cataloghi, fare le prenotazioni da casa, via internet, avere i prestiti interbibliotecari, che significa invece che spostarti tu nella metropoli ti facciamo arrivare il libro da altre biblioteche o addirittura da altre città. E vabbè, la navigazione in internet, una quantità di cose che insomma io come lavoratore e come cittadino penso siano un diritto in ogni paese civile. Di qualsiasi persona, italiano, straniero, vecchio, giovane, in tutti i paesi civili le biblioteche funzionano, dovrebbero funzionare così. Il potere pubblico garantisce questa cosa e i cittadini ne usufruiscono. Torniamo alla storia recente, se no sarei troppo lungo perché non potrei parlare per giorni, ovviamente. Alemanno fa questo taglio, escono degli articoli sui giornali in cui lui motiva questo taglio con l'esigenza di salvare il Teatro di Roma e il Teatro dell'Opera. Quindi praticamente questo taglio rimarrebbe nel comparto cultura, solo che questo taglio è un terzo del bilancio di Biblioteca di Roma. Stiamo parlando di 7 milioni su 21, di una realtà di 38 sedi bibliotecarie, più gli uffici centrali che servono a far funzionare tutta la macchina organizzativa, 290 circa dipendenti di ruolo, che erano 340 fino a pochi anni fa, perché chi è andato in pensione non è stato sostituito. Quindi abbiamo carenza di personale in molte strutture, più 95 dipendenti Zetema, e non vi faccio la storia di Zetema, ma insomma sono colleghi con un contratto diverso, con un orario diverso, con condizioni peggiori del personale di ruolo, che però fanno sostanzialmente le stesse cose all'interno della stessa struttura. E quindi questa realtà ha avuto un bilancio decurtato di un terzo, questo da gennaio scorso. Chiaramente si sapeva delle elezioni, non c'è stata precedentemente, c'è stata chiaramente un rifiuto di questa cosa, ma l'impossibilità di chiedere in vista delle elezioni un cambiamento, un rientro di questo taglio, no? A chi l'andavamo a chiedere? Alemanno si presentava alle elezioni, ovviamente se l'avessimo fatto avrebbe detto beh, rieleggetemi e questi soldi ve li faccio riavere, quindi era perfettamente inutile, dovevamo aspettare le nuove elezioni amministrative. A giugno viene eletto Marino, immediatamente parte una lettera sindacale unitaria di tutti i delegati, sia sindacati di base che confederali presenti in istituzioni biblioteche, in cui si chiede un incontro urgente con l'assessore perché appunto la situazione è in via di deterioramento. E questo incontro non viene concesso, poi arriva agosto, insomma a settembre, vi abbiamo fatto anche la cronaca diretta dalla radio, c'è stata questa mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici, l'assemblea sindacale fatta nel cortile dell'assessorato alla cultura, l'assessore che scende, sorridente, solidale, un bellissimo discorso, le biblioteche sono una cosa fondamentale, bla bla bla, si va su all'incontro, ci si trova sostanzialmente d'accordo sulla necessità di garantire il finanziamento adeguato, si arriva al verbale della riunione, come delegati sindacali lo scriviamo, l'assessore intanto è andato in giunta, e scriviamo la cosa più importante, cioè bene questo reintegro di 4 milioni, ma servono anche gli altri 3, altrimenti non ce la possiamo fare a garantire quello che abbiamo garantito fino ad oggi. E lo lasciamo insomma alla direzione dell'assessorato, aspettiamo la risposta arriva la sera e con una piccola modifica, manca l'impegno della giunta e dell'assessore a trovare i 3 milioni mancanti. Quindi stupore, panico, rabbia, si prova a modificare di nuovo il verbale, a chiedere conto all'assessore, ma come, ne avevamo parlato, era d'accordo e tutto il resto, si riscrive il verbale e per la seconda volta, il giorno dopo, arriva un verbale diverso in cui quindi viene evidenziato che i sindacati chiedono questa cosa, ma la giunta non si impegna. Quindi è chiaro che questa giunta, pur sapendo dei problemi oggettivi di bilancio, indubbiamente non è che viviamo nel mondo della luna, però come ricordavi tu all'inizio, le biblioteche di Roma, per il tipo di servizio, per la presenza fino alle estreme periferie, per il fatto che è forse l'ultimo servizio gratuito e anche di qualità aperto veramente a tutti, soprattutto alle fasce subalterne, quelle più disagiate, agli stranieri, insomma le biblioteche sono aperte veramente a tutti, non chiudiamo le porte in faccia a nessuno, e quello che facciamo fortunatamente l'abbiamo difeso come servizio gratuito. E ecco, questa cosa diventa evidente, e quindi la battaglia adesso si sposta a livello istituzionale sul Consiglio di Roma Capitale, perché è il Consiglio che deve approvare il bilancio. All'interno di questo bilancio è fondamentale che questa cifra si trovi. Ora, dal 18 di settembre sono passate altre 2 settimane, sono state fatte altre richieste, non è stato risposto, per cui dal 1 ottobre, diciamo ieri, è arrivata questo ordine di servizio che sospende l'accordo sul salario accessorio. E come dicevo prima, noi abbiamo un tavolo sindacale, essendoci autonomia gestionale, c'è anche un tavolo sindacale in cui, forse un po' anomalo per dirvene una, nella IRSU, cioè i delegati sindacali eletti dai lavoratori e delle lavoratrici, sono 3. Di questi 3, 2 appartengono a un sindacato di base, che è l'Unione Sindacale Italiana, e uno alla CISL. Poi ovviamente ci stanno CGL, UIL, un sindacato autonomo che è il DICAP, che hanno diritto comunque a essere presenti in quanto maggiormente rappresentativi a livello nazionale, insomma le cose che penso gli ascoltatori e le ascoltatrici conoscono se ascoltano la radio spesso, perché è una realtà che vale a livello nazionale. Quindi una presenza, diciamo, forte di sinistra, che ha anche ottenuto sia dei vantaggi economici per i lavoratori e le lavoratrici, che un servizio soddisfacente, anzi decisamente buono, non perché lo diciamo noi, ma insomma ce lo dicono e ce lo scrivono per i cittadini. Questo accordo però ha una clausola vincolante di legge, che poi ha a che fare con il controllo della Corte dei Conti, che dice esattamente questo: ok, voi potete fare questo accordo, distribuire questi soldi al personale per una serie di progetti di produttività, e che comprendono per esempio le aperture extra orario, perché come forse saprete ci sono molte biblioteche che aprono la sera tardi, alcune che aprono il sabato pomeriggio oppure la domenica mattina, insomma orari extra oltre a quelli normali, sempre a favore della cittadinanza. Ma essendo lavoro in più, giustamente questo lavoro deve essere pagato, e quindi il salario accessorio copre anche questo tipo di spese. Ecco, la clausola che dicevo prima, vincolante, è che un accordo di questo genere è valido, cioè i soldi si possono spendere, se viene approvato il bilancio di Roma Capitale, che è l'ente finanziatore dell'istituzione biblioteche, perché chi lavora nelle biblioteche è comunque dipendente di Roma Capitale, però ha una formula organizzativa più efficace, più efficiente, diciamo i fatti hanno dimostrato che si è rivelata migliore di quella di prima, in cui ogni biblioteca dipendeva dal municipio, e quindi se non è approvato il bilancio preventivo, questi soldi non si possono spendere. Ora, fino all'anno scorso, per esempio l'anno scorso, il bilancio alemanno l'ha approvato il 31 ottobre, no? Però noi non abbiamo avuto problemi a continuare a spendere i soldi per il salario accessorio, perché c'era la garanzia, anche informale se volete, ma insomma la sicurezza, che il bilancio delle biblioteche non sarebbe stato toccato. Invece quest'anno, con la nuova giunta, che ripeto si è trovata di fronte a un taglio che non ha fatto lei, questo per verità storica, ma ha la responsabilità di dire: vogliamo rimediare a questo guaio oppure non vogliamo o non possiamo rimediare. Ecco, loro ci hanno detto: non possiamo rimediare, 3 milioni non ve li possiamo trovare. E quindi, ritornando alla famosa clausola, la direzione, che ha il compito di gestione, no? Perché il direttore è anche il datore di lavoro dal punto di vista legale e sindacale, ha dovuto sospendere questo accordo. Cosa significa? Automaticamente tutto quello che si poteva garantire pagando questa qualcosa in più ai lavoratori viene cancellato. E quindi a che cosa si torna? Anzi, non è un ritorno, è una cosa che per le biblioteche dobbiamo tornare indietro a 25 anni fa. Si torna agli orari dei municipi, si torna a una riduzione drastica al pubblico, quindi doppio danno economico per quanto riguarda chi lavora, che ha una decurtazione media del 25% dello stipendio, e per il pubblico, perché dalle 50 ore settimanali arriviamo a meno della metà, cancellando addirittura pure i sabati mattina, per non parlare poi di tutte le iniziative extra orario che non esisteranno più. E dal 7 ottobre questa cosa diventa esecutiva. L'ordine di servizio è arrivato ieri sera, perché la direzione sperava fino all'ultimo che ci fosse una risposta dalla parte politica, che invece non è arrivata, e quindi si è vista costretta a fare questa cosa. Ora, come diciamo, forze sindacali, rappresentanti sindacali, è stato fatto un comunicato unitario in cui si respinge questo tipo di cosa e si chiede un urgentissimo appuntamento con l'assessore o comunque con la giunta capitolina. Non sappiamo se questa risposta ci sarà. È chiaro che è un passaggio di tipo drammatico. E un altro dato importante da far capire è che questo passaggio obbligato, questa famosa clausola, tra l'altro non risolve il problema del deficit, perché non è che il salario accessorio equivale a 3 milioni, magari, stiamo parlando di una cifra intorno ai 400.000 euro, 450.000. Quindi resta il grosso di questo bilancio, che dovrà essere tagliato nel prossimo futuro, dovrà essere tagliato dal CDA, cioè dall'organo politico delle biblioteche, che non è stato ancora nominato dal sindaco, come invece avrebbe dovuto fare. In pratica la gestione delle biblioteche decade con la fine della consigliatura, quindi il nuovo sindaco, tra le tante cose che deve fare, deve nominare il presidente del consiglio di amministrazione delle biblioteche di Roma e il suo direttore, quindi la parte politica programmatica, e che ha la responsabilità del bilancio, che è il CDA, e la parte amministrativa gestionale, che è il direttore, che è anche il datore di lavoro di chi lavora nelle biblioteche. E infatti noi gli accordi sindacali li firmiamo col direttore. Ora, anche questo passaggio è mancato, quindi c'è un doppio deficit, uno di bilancio e l'altro proprio di chi può decidere. Ecco, i tagli di bilancio però, dopo questo drammatico, sia dei salari che dell'orario, non finiscono qui, perché bisogna ancora tagliare circa 2,5 milioni. E dove si taglia? Tra le ipotesi, purtroppo, c'è anche il taglio di personale Zetema, che viene pagato con un finanziamento che è di 3.600.000. E qui c'è un'altra anomalia. Infatti mi dispiace che il discorso sia così complicato. Io, se non fosse chiaro, interrompimi pure. Le cose purtroppo sono complicate. Quando si è creato Zetema, quando il centro-sinistra ha creato questo mostro giuridico, secondo me, di una società a totale capitale pubblico che però funziona come un'azienda privata, in cui c'è un profitto garantito che va ai gestori, agli amministratori di questa società e non certo ai lavoratori. Quindi la società Zetema sostanzialmente è una fornitrice di manodopera, no? All'istituzione biblioteca non basta più da anni il personale di ruolo, e quindi deve rivolgersi all'esterno per coprire i buchi. Quindi si rivolge a Zetema, che fornisce 95 lavoratori e lavoratrici assolutamente fondamentali per garantire l'orario delle biblioteche di apertura e anche la sua funzionalità e i vari servizi, e questo personale viene pagato, quindi c'è un doppio passaggio: le biblioteche pagano Zetema, Zetema trattiene il profitto, e quello, diciamo, detratto il profitto, paga i propri dipendenti, che però lavorano per le biblioteche. Con l'assurdo che tu hai fianco a fianco due lavoratori che hanno un contratto diverso, una paga diversa, delle ferie diverse, Zetema, diciamo, è trattata peggio dei dipendenti di ruolo, tanto per capirsi, e che però fanno le stesse cose. Oltretutto al contribuente, ai cittadini, il lavoratore Zetema costa di più come salario base del lavoratore di ruolo. Questo di più è rappresentato dal profitto che viene garantito alla società. Ma ripeto, se fosse una società privata, al limite uno potrebbe dire vabbè, questa è una società privata, rischia, e quindi il profitto, come vuole l'ideologia del capitale, il profitto è il premio per questo rischio. Invece non c'è nessun rischio, perché la proprietà di questa società è al 100% di Roma Capitale. Quindi, per farvi capire, no, tutto questo a vantaggio di pochissime persone che appunto possono investire o gestire o redistribuirsi questo profitto sostanzialmente senza nessun controllo. Non solo, le assunzioni di Zetema non avvengono con i criteri diciamo minimi di garanzia di un concorso pubblico. No, loro possono assumere autonomamente, fanno semplicemente un annuncio su internet e poi i dirigenti di Zetema decidono chi far lavorare. Quindi è un'altra stortura per un sindacato di base come quello di cui io faccio parte, assolutamente inaccettabile, ma che non siamo riusciti a bloccare e a impedire. Quindi una situazione veramente molto ingarbugliata che con questi tagli sta letteralmente esplodendo. Cioè noi forse siamo alla vigilia della scomparsa di un servizio come le biblioteche di Roma, che il sistema bibliotecario pubblico di base più importante d'Italia, e quindi non stiamo parlando di una cosa piccola, ma di una cosa che avrà una risonanza anche nazionale, se non di più. Ora, fatto questo quadro assolutamente fosco, voglio anche dire che la partita non è ancora persa. In effetti, da un punto di vista legale, istituzionale, questo bilancio preventivo ancora non è stato approvato. Quindi delle settimane di forte mobilitazione, di forte diffusione di questo allarme con gli utenti, con i cittadini, potrebbero far cambiare idea alla giunta che sta aspettando i soldi del governo, perché sono stati tagliati, lo sappiamo, i governi degli ultimi almeno degli ultimi 10 anni hanno continuamente tagliato i fondi agli enti locali, che di fatti sono al collasso. L'ultimo taglio è stato quello della prima rata dell'IMU, che andava ai comuni, e invece per fare contento Berlusconi è stata tolta, e quindi altri soldi in meno agli enti locali e ai servizi forniti ai cittadini. Quindi questa mobilitazione sta crescendo, tutti gli utenti delle biblioteche, ma anche gli studenti delle scuole, possono firmare l'appello che abbiamo diffuso già da un paio di settimane, perché non vengono chiuse le biblioteche, perché non vengano licenziati lavoratori e lavoratrici che le fanno funzionare, e questo è sicuramente una forma di pressione. Un'altra è acuire le contraddizioni che esistono tra la maggioranza capitolina, la maggioranza politica che sostiene il sindaco, e la giunta, cioè tra il potere esecutivo, compreso quello di bilancio, e invece la maggioranza consigliare. Sappiamo, ci sono state dichiarazioni pubbliche, che la Commissione Cultura è fermamente contraria a qualsiasi taglio alle biblioteche, e però sappiamo anche, perché io sono stato presente alla recente audizione delle Commissioni Cultura e Bilancio, che c'è stato qualche giorno fa, che invece il Presidente della Commissione Bilancio e dice non si può fare, ci dispiace, ma il deficit riguarda tanti settori, purtroppo anche le biblioteche devono subire questo taglio. Quindi acuire questa contraddizione potrebbe essere una possibilità per salvare questo servizio, così come è stato e così come potrebbe ancora migliorare, invece che affossarlo definitivamente. Io mi fermo qua perché sì, ho detto tantissime cose, magari se vuoi farmi qualche domanda per chiarire. Beh, guarda, sei stato molto, diciamo così, esauriente, per cui credo sia stato detto praticamente tutto. La contraddizione peraltro si acuirà senz'altro, anche perché, come tu hai anticipato, ieri è arrivato questo ordine di servizio, quindi dal 7 ottobre c'è questa diciamo drastica diciamo taglio del servizio, per cui ci si potrà rivolgere alle biblioteche comunali solo negli orari in cui di solito sono aperti i municipi, quindi gli sportelli pubblici. Quindi, come tu dicevi, dal martedì e il giovedì fino alle 17:30, col taglio pure del sabato. Quindi una situazione veramente insomma pesante. Speriamo che questo magari provochi le giuste reazioni. Il bilancio preventivo dovrebbe essere approvato alla fine di novembre, no? Sì, che poi voglio sottolineare la demenzialità di questa situazione. Il bilancio preventivo normalmente viene approvato l'anno prima dell'anno a cui si fa riferimento, o tutt'al più nei primi tre mesi dell'anno, certo, in corso. Stiamo alla fine. Invece il preventivo 2013 viene approvato il 30 novembre 2013, mentre siamo quasi al consuntivo invece, certo. Quindi è proprio una situazione assurda in sé. Vediamo un po', insomma, quello che succede. C'è anche, dicevi, questa vacanza rispetto alla così sfera decisionale nelle biblioteche, per cui esatto, si dovrebbe ricomporre anche quel quadro. Sì, tra l'altro quella è costo zero, il sindaco potrebbe farle subito queste nomine, non costano niente, però significano tanto, perché almeno potremmo cominciare a funzionare nella pienezza insomma, di chi deve decidere cosa. E magari la direzione può anche, diciamo, essere più forte in termini di pressione, no? Che ne so. Ripeto, la direzione ha il compito di gestione, ma non può assolutamente mettere mano al bilancio. Può interrompere gli accordi che ha firmato, gli accordi sindacali, che appunto penalizzano lavoratori e utenti, ma sul bilancio non è che può decidere, ok, da domani, che ne so, tagliamo tutte le pulizie, anche perché lì ci sono dei contratti, no? Tu c'hai un contratto di pulizie, se lo interrompi prima della scadenza, se non è prevista una clausola, devi pure pagare i danni, quindi tante cose manco le puoi fare, ma in ogni caso se non c'è chi può decidere, è tutto bloccato. Insomma, è veramente una situazione pesante da una parte e assurda. È ingarbugliata, abbastanza ingarbugliata. Sì, va bene. Sì. Gianni, appena ci sono delle novità, ci risentiamo. Vi faccio sapere, certamente. Ciao, a presto. Se volevi entrare nei grill, era meglio lasciar fuori il tir. Sono rimasti degli orfani.